universal, spinning me round. She's coming over me, me. And it all breaks down at the first rehearsal. I'm losing my head. She's universal, spinning me round. She's coming over me, me. Kind of buys the last for days. Had some help from insect ways. Comes across all shy coy. Just another Nancy boy. Woman, man, a modern monkey. Just another happy junkie. 50-pound, press my button, going dead now. And it all breaks down, the full reversal. Got me losing my head, she's universal. Spinning me round, she's coming over me, me. And it all breaks down, the first rehearsal. Got me losing my head, she's universal. Spinning me round, she's coming over me. E buonasera a tutte, tutto e tutti, bentornato a Radio Tutto l'anno, Radio Lotto Tutto l'anno, ottimo incipit! E questa sera siamo in diretta io, Arianna, Elisabetta e Ludovica. Ciao, ciao a tutte. Ed eccoci qui, abbiamo iniziato con Nancy Boy dei Placebo, per chi avesse voglia di segnarsi il titolo della prima traccia di oggi. E insomma, eccoci qui, 8 aprile. La puntata di oggi è stata pensata e disegnata da Ambrosia, la collettiva che avete imparato a conoscere, e letture di cura. E non so se Ludovica o Elisabetta vogliono dirci qualcosa su letture di cura. Sì, vado io, Eli. Certo, vai Ludo. Letture di cura è un piccolo collettivo che ogni settimana circa si trova a leggere dei testi che riguardano la salute mentale e forme di cura autonome e resistenti, cercando un po' di riflettere e di espandere quelle che sono le nostre pratiche sia politiche che etiche. E quindi la cura è sia l'argomento delle nostre letture, per questo letture di cura, e sia anche la pratica che cerchiamo di mettere in atto fra noi. E come avrete intuito, dunque, il tema della puntata lo anticipiamo subito, se siete d'accordo, poi lo esploriamo un po' dopo, ma il tema della puntata oggi è salute mentale e Covid-19. Giusto, ragazze? Giustissimo. Allora, per cominciare, però, ricordiamo alcuni dei nostri contatti, ricordiamo prima di tutto uno dei cardini, diciamo, della radio, uso parole a caso, ossia la condivisione, Radio Lotto Tutto l'anno, è la radio che si basa anche e si nutre della condivisione di tutte e tutto, e quindi se avete voglia di partecipare mandando contributi di qualunque tipo, vocali, poesie, esperienze, temi che volete suggerire, e poi spoiler, ma tanto ormai il format spero l'abbiate un po' presente, partecipare alle splendide rubriche, vi diamo i contatti a cui potete scrivere. Inizio io con darvi contatti, non una di meno, Milano, a cui potete scrivere per appunto contribuire alla radio, non una di meno, milano@gmail.com. C'è anche un blog, non una di meno, Milano blog su WordPress, e poi c'è tutta la componente social che potete trovare sia Facebook, Instagram e Twitter, nonché il canale Telegram. Ma non ci fermiamo qua sui contatti, giusto? Giusto, e infatti sempre in tema di presa di cura di se stesse, presa di cura però anche collettiva, se conoscete amiche, sorelle, donne che siano in difficoltà, potete innanzitutto consultare il sito direcontrolaviolenza.it, oppure potete rivolgervi alla Casa delle Donne Maltrattate di Milano al seguente numero 02 55 01 55 19 o chiamare il numero nazionale antiviolenza 1522. E, sempre in tema di presa di cura di se stesse, ma appunto anche collettiva, delle nostre sorelle e compagne, potete rivolgervi anche a obiezione respinta, e sappiamo come questo sia un momento particolarmente delicato per abortire. Per questo potete anche rivolgervi al canale SOS Aborto tratto basso COVID-19. Ci sono anche canali social, quindi potete anche consultare le pagine Facebook di Obiezione Respinta, ma anche IVG Ho Abortito e Sto Benissimo, e c'è anche il canale Instagram di Obiezione Respinta. Via email invece l'indirizzo è obiezione.respinta@canaglie.org. È stato attivato anche un numero di telefono che è valido 24 ore su 24, che è il seguente 331 96 34 889. Abbiamo finito con i contatti, ragazze? Sì, possiamo tuffarci nel faceto per un secondo? Ma Andiamo, andiamo. E quindi ricordiamo le nostre splendide rubriche, ma facendo salire anche un po' di aspettativa perché abbiamo una rubrica nuova che presenteremo velocemente oggi, giusto? Una nuova rubrica. Sì, esattamente. Avevamo introdotto anche in effetti dei suoni che accompagnavano i momenti di aspettativa. Potremmo provare a rintrodurli. Allora, le Vai, vai. nostre. Una nuova rubrica. Bella. Le nostre rubriche, quelle un po' consolidate, storiche, a cui vi invitiamo a partecipare sempre, che sono la posta del cuore e ti dedico una canzone. La posta del cuore avrete la possibilità di confrontarvi con altri cuori, testoline, corpi, sulle cose che non vi fanno dormire la notte, sui vostri patemi di cuore e sui vostri dubbi. E poi ti dedico una canzone, come dice il nome della rubrica, vi permette di collegarvi anche con chi è lontano, lontana da voi in questo momento, e dedicandogli una bellissima canzone. E su questo noi saremmo felicissimi di ricevere un po' dei vostri contributi, ma ne abbiamo uno importante oggi. Siamo state prese sul serio e su questo siamo molto contente. Non vediamo l'ora di sentirlo. Allora, partiamo subito con la dedica di oggi. È una dedica molto bella, lo anticipiamo. E la mandiamo subito e quindi iniziamo con questa splendida dedica e ci ritroviamo fra un pochino, tutte insieme in diretta. La mia dedica è per gli esseri umani che condividono i cesti sospesi, a chi ogni giorno, nella distanza e nella solitudine, condivide qualcosa di quello che ha e di quello che può. A tutti, tutte e tutto loro. Ora, Nella società della vulnerabilità, delle differenze e delle straneità sofferte, ci troviamo con la necessità di ritessere da capo uno spazio comune. Non si può costruirlo solo sul diritto, se non come condizione minima. Occorre praticarlo, aprirlo, crearlo quando manca. Ma uno spazio comune si plasma con la responsabilità, il riconoscimento, la reciprocità e la capacità di autolimitazione, con lucidità di pensiero, fiducia, coraggio nell'aprire contraddizioni. Una vita comune non è una specie di stasi o di non belligeranza, consiste in legami che fanno ripartire la vita quando entra in fasi di transizioni faticose. È come se ognuno di noi curasse le strategie possibili di vita futura sua e degli altri, e a sua volta ne beneficiasse. Gli spazi comuni sono luoghi di apprendimento collettivo. Si smontano le paure e si costruisce il riconoscimento, il legame che è vincolo e fiducia, la pacata lucidità di giudizio, la capacità di non drammatizzare. In questo contesto assume importanza centrale il tema della sorellanza, ma c'è modo e modo di pensarla e di viverla. Spesso la sorellanza che si costruisce è una sorellanza non di figli, ma di eguali, anzi, di resi eguali dalla logica organizzativa. Una sorellanza strumentale e omologante, dunque, che ci vede funzionali gli uni agli altri all'interno di un'impresa. Ma un conto è essere sorelle perché unificate dall'esterno, altro è esserlo perché ci percepiamo tutte figlie, segnate dalla cura ricevuta, dalla percezione di una vulnerabilità che ci attraversa e orienta alla reciproca cura. In questo caso si parla di una sorellanza che non è solo immediata, ma che è lo scoprirsi tutti nati da padri e madri. Quindi una sorta di filialità fondativa, lo scoprirsi non solo figlie dei propri padri e delle proprie madri, ma semplicemente figlie. Perché il tema della sorellanza è decisivo? Perché per troppo tempo abbiamo pensato che il legame sociale, l'eguaglianza, la libertà dell'individuo potessero sostituire, bypassare la questione del rapporto tra l'io e l'altro, sia in generale, sia nella dimensione intergenerazionale che assume nel tempo. Mai come oggi gli anziani sono nelle mani dei giovani. E i piccoli nelle mani degli anziani e delle loro scelte. L'uguaglianza e la libertà, senza un rapporto vero con l'altro, possono portare a un'arroganza diffusa. Occorre saper guardare, vedere, osservare la vita si fa vita comune, cogliere la sua pratica e la ricerca, e le forme nuove che assume, i racconti che avvia, il futuro che apre. Ivo Lizzoli in questo testo parlava di fraternità. Ma la mia storia mi ha insegnato e le mie sorelle mi hanno dimostrato che forse la sorellanza, è il tema vero e centrale della nostra storia. La canzone è una comunità che si compone, Laura Jane Grace degli Against Me con Miley Cyrus. Buon ascolto. Stop and nowhere to go. Walking the streets all alone. Another night wishing you could forget. who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Who's gonna take you home tonight? Who's gonna take you home? Does God bless your transsexual hearts? True trans or rebel? True trans or rebel? Ed eccoci, tornate, tornato. Grazie mille alla sorella che ha condiviso questa dedica molto emozionante. E che se grazie. Posso, grazie. Grazie. E se posso, ne prendo un pezzettino e condivido un pezzettino della dedica su Happy Hippie Presents a una ragazza che sa chi è, che ha già avuto una giornata lunghissima e un po' dura e che è un po' fan di Miley Cyrus. E lei sa sicuramente che è la destinataria di questa dedica. Momento così in cui ci facciamo le dediche fra di noi. E ne approfitto anche per lanciare un'altra rubrica che comincia oggi, che è la rubrica interpretazione dei sogni. Per cui non ci bastava la rubrica del cuore per farci i cavoli vostri, dato che i gossip non circolano molto di questi tempi, abbiamo pensato di andare un po' a vedere cosa sognate. Quindi mandateci i vostri sogni e abbiamo Chiara che già da questa puntata interpreta un sogno. Esattamente, mandateci i vostri sogni in questo momento in cui il nostro inconscio lavora nei sogni e ci dà delle tracce, e ci mette in contatto con delle tracce. E poi, come dicevamo, iniziamo oggi con la prima interpretazione del sogno. Aspettate di sentire la voce di Chiara. Non so voi, ma io sono curiosissima. Poi tra l'altro... Non so anche voi, non so anche le persone che ci stanno ascoltando da casa, ma sto veramente facendo dei sogni assurdi ultimamente. Sì, io non capisco se faccio sogni assurdi, me li ricordo di più, ma sicuramente è un tema, dobbiamo parlarne fra di noi. Sì, assolutamente. Cosa ne dite? Entriamo un pochino nel tema che abbiamo lanciato all'inizio sulla... della puntata di oggi. Andiamo. Beh, sicuramente un po' come i sogni che stiamo facendo ultimamente, un altro tema di cui si deve assolutamente parlare fra di noi e farlo diventare virale è il tema della salute mentale. Decisamente. Perché non so voi come state messe, che state a casa, che stiamo a casa, ma io sto un po' dando i numeri. No, ma infatti già di solito faccio un po' fatica a connettere la tecnica, il contenuto, e questo lo sapete, e faccio quella tranquilla ora, ma arrivavo diretta da un flusso di riunioni online su temi differenti che non è che esattamente mi avessero rasserenata, per cui sono molto contenta di affrontare questo tema oggi, anche a partire da me. Sì, assolutamente, e infatti... A proposito di salute mentale, dato che è la mia prima diretta, vorrei dire che sono abbastanza agitata e penso che alla prossima canzone tutte ci prenderemo una birra. però sì, possiamo iniziare, possiamo anche un po' iniziare a parlare di quello che intendiamo noi per salute mentale, perché vorremmo dare un attimo una definizione nostra che per certi versi si discosta da quella egemonica. Infatti. Beh, iniziamo da una definizione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cosa dite? Dai. Vai. Ok. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute mentale come una delle componenti centrali del capitale umano, sociale ed economico delle nazioni. È da considerare parte integrante delle politiche relative ai diritti di cittadinanza, all'assistenza sociale, all'educazione, al lavoro. Cosa ne pensiamo di questa definizione? Beh, Già che non si possa parlare di salute mentale senza parlare di capitale, è abbastanza interessante. Infatti, noi vorremmo proporre una definizione leggermente diversa. Per noi salute mentale non è né il reinserimento produttivo, quindi il ritorno al lavoro e il ritorno anche a una soggettività normativa appropriata che viene considerata in salute, ma pensiamo a una depatologizzazione della salute mentale e anche a un'accezione della salute mentale come bene comune. Quindi la salute mentale non può che partire da un discorso politico collettivo e non individualistico. Ci tengo poi a precisare che usiamo convenzionalmente questa espressione salute mentale, ma per noi la salute mentale non è distinta dalla salute fisica. Non vogliamo infatti perpetuare questo binario mente-corpo che al femminismo ne ha procurati di problemi. E non è il corpo che, come si pensa a volte in alcuni discorsi comuni sulla psicosomatizzazione, che traduce i segnali che gli arrivano dalla mente, ma è proprio il nostro corpo che anche soffre, agisce, attacca, resiste. E quindi vogliamo pensare alle forme di disagio mentale come espressioni di sofferenza che riguardano le maniere in cui la nostra vulnerabilità viene vissuta ordinariamente, in una maniera che sicuramente è inegualmente distribuita nella società in cui viviamo. Ed è proprio a partire da questa vulnerabilità che vogliamo anche un po' ridisegnare ed espandere la nostra idea di quello che conta come politico. E proprio su questa idea anche di vulnerabilità come elemento di soggettivazione per ripensare il politico, ci in qualche modo indirizziamo verso il seguito anche di questa puntata, che è pensata proprio in questi termini, attorno all'idea di ridefinire insieme quello che ci fa star bene e ci fa star male, decostruendo anche una visione normativa del corpo, della mente, di cosa è giusto, di cosa è sbagliato, e quindi tutto quello che è normale, e sull'idea che appunto a partire da noi si possano ridiscutere i confini delle nostre relazioni per aprirci anche a dimensioni di vulnerabilità. E se avete voglia, ascoltiamo un pezzo e poi torniamo in diretta. Andiamo col pezzo. I'm Ed eccoci tornate, tornato. Erano Absinthe Rose con Stained Glass e mi sento di dire due cose velocissime prima di proseguire. La prima è abbiamo un problema con la vibrazione, lo rendiamo esplicito, non nascondiamo sotto il tappeto, ma questo è un po' effetto diretta. Quindi chiediamo, siccome insomma, tecnicamente questa vibrazione non si può togliere. Chiederei agli amici miei di Ludo e di Elisabetta di non scriverci su WhatsApp. Mi sembra un buon metodo. Grazie per... Lasciateci un momento di disturbazione. Sì, grazie per darci questo effetto casereccio, anche un po' più punk, però basta. Così, come gestione della tecnica, partiamo alla base. Non usate con noi messaggi durante la diretta su WhatsApp. E l'altra cosa che volevo dire è, se si può fare, Ludo, sei d'accordo? Posso dirlo? Molte delle tracce che avete ascoltato fino ad ora nelle puntate precedenti sono state scelte anche grazie al contributo di Ludo. Quindi, se Ludo ha voglia, ci può anche dire, per esempio, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Come mai è stato scelto? Sto un po' ripescando, devo dire, tra tutte le mie canzoni salvate e come avrete capito ho una leggera ossessione per vari filoni del punk femminista di cui spero non vi stuferete mai in queste dirette perché sono inesauribili nelle mie playlist e nulla. Grazie, grazie, Absinthe Rose grazie Punk, mille perché sentitemela abbiamo. anche voi. Grazie perché abbiamo ballato un sacco, io non mi stufo. Anzi, cioè. Assolutamente no, non ci stufiamo, anzi, balliamo sulle sedie. Cioè, io in questo momento stavo ballando sulla sedia, non so voi. Anch'io assolutamente. Oltre a vibrare, ballavamo. Forse ora potremmo sentire un altro contributo audio che abbiamo per la trasmissione di oggi. Cosa ne dite? Sì, direi che possiamo entrare in uno dei temi di questa puntata, che è nello specifico quella della cura di sé, della cosiddetta self-care. E lo facciamo attraverso un vocale che ci ha mandato la mia cara zia Daniela, che ringraziamo, Grazie Daniela. che in realtà normativamente zia non è, ma noi femministe ci riappropriamo delle parentele e poi io faccio sempre un gran casino con i nomi delle parentele. E questo vocale è l'inizio di uno spettacolo teatrale, Effetto Papageno, uno spettacolo scritto da Sofia Bolognini, Daniela D'Argenio e Michele Pannella, con attrice Daniela D'Argenio. Quindi direi che possiamo andare a sentirlo. Ho letto in un libro all'università che scrivere un diario è una buona alternativa agli psicofarmaci. Io però non sono il genere di persona che si mette lì ogni giorno a scrivere qualcosa. Non ho buone abitudini. No, in realtà io non ho proprio abitudini, né buone né cattive. È che non riesco proprio ad essere costante. E siccome stare bene con se stessi è una conquista, le persone costanti hanno molta più probabilità di farcela. Fateci caso. Siamo bombardati da ricette, istruzioni, consigli su come vivere una vita sana, felice, appagante. Fai movimento, non mangiare questo o quello. Bevi una tazza di acqua calda e limone la mattina appena ti svegli. Aggiungi un cucchiaino di curcuma alle tue pietanze. Vuoi non aggiungere una grattatina di zenzero alla tua insalata? Ma anzi, con quello zenzero facci una bella tisana purificante. Un bel bagno caldo prima di andare a letto. 10 minuti di meditazione per dormire meglio. Insomma, la lista potrebbe proseguire all'infinito. Ma capite bene? Che si tratta sempre di cose che prevedono un impegno quotidiano che deve essere rinnovato ogni santo giorno affinché serva qualcosa. Insomma, la felicità non è per lavativi. E io sono fondamentalmente pigra. O forse no, non lo so. Fatto sa che tendo ad annoiarmi. La routine mi annoia a morte. Ed è appunto per questo che non mi sono mai cimentata nell'impresa di scrivere un diario. Però mi ricordo che quando ho letto questa cosa dello scrivere per combattere la depressione, mi ha molto colpita. e ho realizzato che è come se nella mia mente, fin da quando ero bambina, io avessi sempre tenuto una sorta di diario immaginario. Ho una memoria implacabile. Tendo a ricordarmi tutto, nomi, numeri di telefono, date, soprattutto date. La mia vita è un sistema di date a cui ho associato una serie di momenti, una serie di ricordi significativi. E eccoci, dai, tornate, è tornato. Eccoci qui. Grazie mille, Daniela. Grazie, Daniela. Grazie, Daniela. Abbiamo anche risolto il problema della vibrazione. Scriveteci. Allora, appunto, come diceva Ludo prima, grazie mille, Daniela, che ci permette di entrare ancora di più in uno dei punti di osservazione che abbiamo scelto di discutere oggi, che è quello della self-care, della cura del sé e di tutte le implicazioni che ha con un sacco di ambiti, di esperienze che stiamo facendo in questo periodo, ma non solo, giusto? Assolutamente, certo. Sono uscite delle parole importantissime nel pezzo che abbiamo ascoltato: felicità, routine, tutte questioni che oggi più che mai penso che stiamo un po' ridefinendo, ridiscutendo, cercando il più possibile anche di fare una dimensione collettiva, come stiamo facendo per esempio in radio o in altri contesti. Sì, sicuramente la mia routine alimentare sta risentendo di questa quarantena, dato che oggi ho iniziato a fare merenda appena finito di pranzare e ho finito di fare merenda appena prima di andare in radio. Non so voi, ma ho una grande difficoltà a trattenermi a casa. Sono completamente d'accordo e soprattutto io cambio ogni 2 o 3 giorni il rapporto con il cibo, cioè che routine avere, quanto investimento ho sul momento del cibo come momento di cura di me oppure no. È veramente altalenante per me, per esempio, la routine del cibo come dimensione di appagamento oppure no. Devo dire che non riesco ad avere una traccia fissa rispetto a questo. Sì, ci sono quei giorni che ti svegli e vorresti cucinare una torta a 10 piani e quei giorni in cui sei tipo vaffanculo, neanche un panino. Esattamente, ottima sintesi, Ludo. E credo che in generale l'altalenanza sia proprio un aspetto un po' cruciale, che credo stia caratterizzando un po' tutti gli aspetti di questo isolamento forzato. Cioè, non so voi, ma anche il mio umore sento proprio come sia una vera e propria montagna russa. Sì, la classica risposta come stai, su e giù, è la mia. E quindi devo dire che questa montagna russa descrive perfettamente quantomeno il mio vissuto. Magari sì, scusa. Un aspetto che mi ha molto colpito di questo monologo è anche proprio l'idea, appunto, della è un concetto che un po' si contrappone a questo che abbiamo appena detto della montagna russa, ossia la costanza, no? Cioè, Daniela fa molto riferimento a questa nozione di costanza che sembra essere proprio il prerequisito, il presupposto perché ci si possa prendere cura di sé. Però chi è pigro? Chi non è costante? Ti senti inevitabilmente un po' colpevolizzato, no? Anche, non so, vedere tutti che tutte che stanno cucinando. Io non sto cucinando niente, cioè. Beh, allora se posso inserirmi su questo, io ho iniziato la mia piccola campagna del mostrare anche un po' di disagio, per esempio, sulla questione del cibo. E l'altro giorno mi sono sentita di condividere sul mio profilo Instagram me che mangio un piatto di riso bianco seduta sui fornelli. Uno, perché non avevo tanta voglia di cucinare. Due, perché sono stufissima del mio tavolo, perché non so quanto tempo passo seduta al mio tavolo e quindi avevo voglia di cambiare prospettiva e sedermi sui fornelli mi dava l'idea di vederlo da fuori e mi sembrava una valida alternativa per chi, insomma, non ha un terrazzo, non ha uno spazio aperto, non può cambiare stanza in cui mangiare, anche quello di vedere cambiare prospettiva, insomma, anche con un ottimo riso bianco e limone, scusate, all'olio, anche senza parmigiano. È questa la creatività della cura che cerchiamo. E, su questo forse possiamo passare a un altro contributo audio preparato da Ludo proprio su questo tema che magari ci fornisce, di sicuro ci fornisce qualche altra parola chiave per andare avanti nel nostro ragionamento collettivo. Certo, perché dovete sapere che io sono troppo timida per fare gli interventi lunghi in diretta, ho paura di sbiascicarmi e quindi ho mandato già a dare i vocali dei miei interventi. Sei bravissima, Ludo, ascoltiamoti anche qua. In questi giorni siamo esposte a quello che si potrebbe chiamare un nuovo filone di porno della produttività, che si vede ad esempio sui social media, dove ci sembra che se non abbiamo lezioni di yoga da seguire ogni giorno, se non ascoltiamo un podcast ogni mattina, se non guardiamo adesso tutti quei film intellettuali che non abbiamo mai avuto molta voglia di vedere, allora non stiamo sfruttando al meglio questo periodo. Per cosa? Ancora una volta, per incrementare il nostro capitale umano, che va incrementato ancora meglio consumando. Ora, a noi piace parlare di due dimensioni della cura di sé. Se sicuramente la cura di sé ha una dimensione ribelle, guerrigliera, come ci ricorda anche Audre Lorde, resistente ad una società che ci vuole esauste e ci rende malate, la cura di sé ha anche una dimensione che è stata pesantemente commercializzata e quindi individualizzata e che ha uno stretto legame con la produttività. Ora, il punto non è colpevolizzare chi pratica queste forme di cura di sé. Anch'io compro le tisane benessere o felicità. Ma lottare per gli spazi in cui si possono adottare forme di cura veramente resistenti, che non riproducono lo status quo, non sono dirette a farci stare un po' meglio per 10 minuti per essere più produttive poi, ma forme di cura che riproducono corpi e alleanze resistenti, collettive e creative, e che traboccano dei limiti di spazio e tempo imposti. Delle cure, insomma, che non siano dirette a farci tornare alla normalità. E per questo resistenti e non resilienti. E qui vorrei aprire una piccola parentesi sulla differenza fra resistenza e resilienza. La seconda parola, infatti, è nata nel dibattito sulla capacità delle infrastrutture di assorbire le cosiddette catastrofi naturali o shock climatici, ed è poi slittata verso l'indicare la capacità di essere autosufficienti e sapersela cavare in situazioni difficili o traumatiche. La resilienza, quindi, delinea una geografia che cristallizza quelle vulnerabilità che il capitalismo ci impone, perché cerca di rimediare a un danno non creato da noi, responsabilizzando l'individuo che lo subisce, rendendo ancora più evidente la distribuzione iniqua della vulnerabilità. Il problema però è proprio la normalità, quella geografia che ha creato in primo luogo il danno. Ed è solo un'ottica resistente e non resiliente che può opporsi a questo. Eccoci tornati in diretta. Bentornati. Rieccoci. Rieccoci, bentornate. Grazie mille Ludo per questo contributo. Vogliamo fare Ludo che commenta Ludo? Dopo questo spippozzo sulla cura di sé e resistenza e resilienza, penso che sarei un po' autoreferenziale a ricommentarmi. Quindi, non so cosa vogliamo fare, vogliamo presentare il prossimo contributo? Presentiamo il contributo e anche appunto prendendoci un po' delle parole chiave che tu hai posto in questo, nella pillolina sul self-care, che poi riprenderemo anche più avanti, che è quella appunto alla spinta alla responsabilità personale, al rischio che appunto fare riferimento a concetti come resilienza in realtà non faccia altro che aggravare le disuguaglianze, cristallizzando le vulnerabilità che hanno poi una base sociale, economica molto forte, nascondendola come invece qualcosa che con tanta buona volontà si può in realtà superare. E questo mi sentirei tra le mille cose importanti dette di tenercelo lì, perché se non sbaglio lo riprendiamo anche dopo, giusto? Giusto, sì, certo, assolutamente. È importante pensare alla cura nella sua dimensione collettiva. E ora, su questa linea di pensiero abbiamo la fortuna anche oggi di avere un contributo di Chiara, Chiarezza, che è una psicologa, che ci aiuta a mettere un pochino a tema la questione della salute mentale in questo preciso momento, e quindi la ringraziamo tantissimo anche per il contributo di oggi. Ci sentiamo fra un Grazie pochino. mille. Grazie Chiara, Grazie. grazie. Eccoci, siamo di nuovo qui con Chiara in collegamento da Roma e abbiamo una domanda per lei ed è questa: qual è l'impatto sulla salute mentale che può avere e richiedere i medesimi standard di produttività nel lavoro produttivo e non in una situazione come quella in cui ci troviamo? Si può davvero fare come se nulla fosse? Allora, tanto ciao a tutte e io vi ringrazio tantissimo per aver nuovamente coinvolta in questa bella radio. È un sogno quello di scrivere la rubrica Parlare con chiarezza. Carlotta ne sa molto di questo e magari prima o poi riusciremo anche ad avverare questo mio piccolo desiderio. Detto ciò, allora la domanda è molto complessa, mi state lanciando una sfida diciamo, significativa. Perché lo Perché dico? abbiamo Perché. molta fiducia in te, Chiara. Perché Che cosa? Scusa? abbiamo molta fiducia in te, Chiara. Grazie, grazie. Sento questa fiducia e spero di poterla ripagare. Ma il punto è questo: che ovviamente in questo momento andrebbero un po' distinti i tipi di lavori che vengono svolti. Perché ovviamente c'è chi in questo momento nelle case non sta lavorando perché non so come dire, ha delle attività in proprio che non possono proseguire attraverso il telelavoro, lo smart working, ha dovuto in qualche modo rispondere ai decreti sospendendo le proprie attività lavorative e lì diciamo ci possono essere delle ricadute perché ovviamente ci sono delle ricadute sia nel riempire in maniera come posso dire, ossessiva il nostro tempo o anche nel ritrovarlo vuoto e doversi rapportare con, diciamo, con la noia e viverla in termini esclusivamente negativi, perché ovviamente c'è anche questo di tema, no? Il fatto che nella vita che abbiamo vissuto finora, la noia è come il grande, non so come dire, è qualcosa che non ci possiamo permettere, ok? Invece adesso diventa per chi ha dei ritmi di vita che sono drasticamente cambiati perché magari non lavora più, appunto, diventa una parte importante da tollerare. Quindi proverei anche a stare su questo punto. Dall'altro lato c'è chi invece, attraverso le formule del telelavoro e dello smart working, ma penso anche alla teledidattica per molti docenti e insegnanti, è praticamente oberato di lavoro. Cioè non c'è una richiesta di rimanere dentro standard ordinari, ma gli standard sono diventati elevatissimi. Faccio un esempio per me, io faccio un dottorato di ricerca con l'idea che si lavora a casa e quindi, come posso dire, è come se tutto il tuo tempo che vivi a casa, cioè H24, potesse essere in qualche modo rivolto al lavoro. Si muovono delle richieste molto, molto, diciamo, elevate in un momento in cui bisogna anche dirsi che sì, è vero, adesso è più di un mese che siamo in questa situazione, ma non so come dire, il nostro anche sistema nervoso ne risente in maniera significativa. Allora, quali sono i rischi? Innanzitutto di abbassare la qualità della prestazione lavorativa, che in alcuni casi anche dire chi se ne frega, in altri, quando un lavoro autonomo, per esempio, ricade su di sé, diciamo, se si abbassa la qualità è un problema per la propria vita. Quindi questo. Dall'altro lato, sentire anche un po', diciamo, la difficoltà a dividere gli spazi di vita da quelli del lavoro. E su questo i rischi sono molteplici perché dipende anche molto dal contesto in cui si è inseriti, c'è chi vive dentro case dove non esistono spazi privati, ad esempio, quindi bisogna negoziare i propri momenti di concentrazione con quelli necessari che hanno anche le altre persone. C'è chi invece vive condizioni di totale isolamento perché magari vive da solo, e allora lì davvero, diciamo, l'oppressione, il sentirsi overwhelmed, sopraffatti dal contesto, diventa un rischio molto, molto elevato. Quindi diciamo che in generale questa situazione, che rappresenta una situazione che molti hanno definito un trauma collettivo, non so se questa è la parola più adatta, però c'è sicuramente un portato di angoscia collettiva molto forte che nell'aria è respirabile, sia per chi sta sempre a casa, ma anche quando uno va a fare la spesa pensando di ritagliarsi un momento di tranquillità e poi si ritrova a fare delle file estenuanti in un contesto, diciamo, distopico in cui tutti portano la mascherina, non ci si sente a proprio agio, ecco, questo è certo, ecco. Quindi diciamo le conseguenze diciamo, di prestazioni lavorative richieste molto elevate sulla propria salute mentale possono essere di varia natura, diciamo non riesco a fornire una risposta generale a questa domanda perché lo spacchettamento delle forme lavorative, le differenze individuali, le differenze relazionali, sociali ed economiche definiscono anche conseguenze ed esiti differenti. Devo dire che sicuramente questo, diciamo, è lancio un po' un sassolino nel mare, c'è un dibattito aperto e anche delle forme di riflessioni profonde su quelle che sono le esperienze di psicoterapia online. Questo lo dico rispetto alle persone che già seguivano dei percorsi e che li seguivano per vari motivi e che in questo momento possono beneficiare di appunto di una continuità terapeutica con il proprio terapeuta, con la propria terapeuta, perché anche la psicoterapia, la psicanalisi e queste forme di sostegno alla salute mentale si interrogano su come in qualche modo garantire supporto in condizioni che non rendono molto complesso l'incontro, appunto. Però devo dire che ci si sta accorgendo anche con interesse che l'incontro tra menti e quindi lo spazio del sostegno si crea anche dentro una dimensione non, diciamo, di non compresenza, e su questo io invito veramente a non so come dire, quello che mi viene in mente a me è di trovare degli spazi per poter comunque esprimere il disagio, ecco, non sentirsi anormali, differenti, non pensare che c'è qualcosa che non va in sé. È molto complicato stare in questo tempo. La retorica del non fermarsi a volte è una risposta difensiva a un'angoscia soverchiante che non riesce a essere contenuta. Quindi da un lato c'è, diciamo, ovviamente la retorica quella istituzionale di chi pensa che l'unica cosa da dover tutelare siano i meccanismi produttivi e le forze produttive economiche del paese. Dall'altro lato però c'è anche chi la usa proprio così inconsciamente come un meccanismo di difesa per dire alla propria mente: è tutto ok, continuo a lavorare, continuo a fare la mia vita, a condurre la mia vita lavorativa come se niente fosse, e questo mi dà una parvenza di normalità. Ecco, io penso invece che a volte fermarsi e sentirsi, che è una cosa molto complicata e che va anche fatta con le dovute accortezze, però possa definire anche uno spazio di possibilità per diciamo le nostre complicate organizzazioni psicologiche, che in questo momento vivono delle grandi, diciamo, delle situazioni di forte spaesamento. Grazie mille, Chiara, per averci fatto un quadro così ampio. Non era facile, in effetti, la domanda, per aver quantomeno per me puntuale, cioè la cosa che mi risuona molto è questa questione del fatto che la nostra società si aspetta che dedichiamo tutto questo nostro tempo libero al lavoro e non c'è nessun rispetto di quello che deve essere. Sì, che l'altro. Poi in parte mi viene anche da dire che è quello che faceva anche prima, certo. Cioè le famose, noi insomma anche dentro Non Ha di Meno, soprattutto rispetto a certi tipi di lavori che attengono molto, diciamo, appunto al lavoro cognitivo, eccetera, le mail di domenica, i messaggi a qualsiasi ora, il professore o la professoressa che ti chiede cose impensabili in qualsiasi momento, anche durante le festività. Diciamo che ecco, lì in questo momento vengono meno alcuni fattori di protezione contestuali che invece prima si potevano utilizzare e che spesso però erano difficili da utilizzare, nel senso che poi ci siamo cascate tutte nella trappola, nonostante le nostre, sì, diciamo, consapevolezze, diciamo, collettive. Grazie. Grazie. Prego. Mille. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta, meta y meta, dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta, así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta, y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar, como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar, porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás, porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar. Ed eccoci di nuovo, erano Miss Bolivia e Jay Mena con Se Quema. Eccoci. Eccoci, ritrovate. Beh, sicuramente un grandissimo grazie a Chiarezza, davvero per il suo contributo, molto, molto interessante. Ma credo che un po' dalla riflessione collettiva che stiamo facendo, comunque l'idea centrale che emerge è che no, non possiamo davvero fare come se nulla fosse, stare a casa come se nulla fosse, per poi auspicare un ritorno a quella che era la normalità, perché abbiamo capito benissimo come la normalità fosse sia tuttora il problema, perché non so cosa ne pensate anche voi che ci ascoltate, o anche tu Ludo, anche tu Ari, ma... a me sì, certamente angoscia in questa fase di isolamento forzato l'idea, certo, che ci sia una pandemia in corso. Ho anche delle preoccupazioni poi personali, più legate a, anche al lavoro che sta facendo in questo momento uno dei miei due genitori, un medico. Ma forse a me la cosa, l'aspetto che più veramente suscita una serie di preoccupazioni, di angosce, che indubbiamente va a influire sulla mia salute mentale in questo momento, è la precarietà. Già vivevamo un contesto estremamente precarizzante che ci ha appunto rese precari, e a me adesso, non lo so, pensare che mi lavorerò in corso di una pandemia e poi probabilmente mi dovrò trovare un lavoro, se mai lo troverò, in una situazione di crisi economica spaventosa, ecco, non so voi cosa ne pensate. Sì, sicuramente direi che questo ritorno alla cosiddetta normalità, che appunto, se non si è ancora capito, noi non vogliamo, è uno dei punti chiave di questa puntata, soprattutto appunto anche il rapporto fra la normalità e una certa idea normativa di salute che molto spesso si associa a determinati standard di produttività. Infatti una cosa che appunto diceva Chiarezza, che dicevamo anche noi poi fuori onda, si dice così? Stiamo diventando professionalissime, fuori onda, commentando Chiarezza, che ha stimolato un sacco anche di discussioni fra di noi, era appunto questa dimensione dell'anche amplificarsi di alcune tensioni, dimensioni economiche, di sfruttamento del lavoro che erano già presenti e che in qualche modo esplodono, ci esplodono fra le mani nella vita di tutti i giorni, nelle case diverse che abitiamo, nei lavori differenti che facciamo, nei corpi diversi che abitiamo, in un contesto in cui le nostre risorse, le risorse a cui abbiamo accesso cambiano, per cui ci troviamo di fronte a delle sfide in parti simili legate allo sfruttamento del nostro tempo, dei nostri corpi, delle nostre menti, a cui eravamo sottoposti al capitalismo anche prima, in una situazione in cui c'è tutto uno stress emotivo dato anche dall'emergenza, dalle preoccupazioni e dato anche dal fatto che cambiano le risorse che abbiamo accanto, le persone che possiamo vedere tutti i giorni, con cui parlare, che possiamo toccare, che possiamo vedere. E questo direi che, almeno per me personalmente, è una delle questioni grandi, che evoca anche il tema del con chi ci si ritrova a vivere alcune questioni, e quindi ancora di più è importante parlarne insieme, stare insieme fra sorelle. Certo, infatti devo dire che la radio è, secondo me, è stato proprio un ottimo spazio anche per questo. Anche prima di oggi, nelle puntate precedenti, è stato uno dei momenti in cui mi sono sentita meno sola durante questa quarantena. Concordo, mi unisco. E concordo. E quello che ci dicevamo ora richiama un'altra questione importante, che appunto è anche quella della dimensione della produttività, non solo legata l'abbiamo vista prima, legata al performare nello spazio della casa, ma anche legata al lavoro, l'essere produttivi, che va insieme alla retorica del restiamo a casa e continuiamo a lavorare produttivamente con, diciamo, quella brutta parola, possiamo dire, dello smart working, dietro cui si nascondono dei mostri. Va di retro. Quindi su questo, se avete voglia, ascoltiamo un altro contributo preparato da Ludo e poi ne parliamo un pochino assieme. Vi va bene? Assolutamente. Benissimo. Non ci stancheremo mai della voce di Ludo, tra mai, l'altro. Mai. Peggio per voi. Anche se per molte persone è stato necessario ricorrere allo smart working in questa situazione, per esempio per non esporsi al rischio di continuare a frequentare uffici più o meno affollati, lo stato di cose presente dimostra che chiaramente questa non è una risposta strutturalmente sufficiente, e la retorica che osanna lo smart working o lavoro agile ha inoltre oscurato tutte quelle lavoratrici e lavoratori che continuano a lavorare in settori non essenziali. Già da ora possiamo dire come un binomio quasi inscindibile sia costituito da un lato dalla retorica del self-care e della produttività del proprio tempo libero di cui abbiamo parlato, che deve essere impegnato in qualche maniera così da aumentare il proprio capitale umano per quando si ritornerà alla normalità. E già da questo capiamo che tipo di normalità hanno in mente. Dall'altro lato, il consumo produttività del proprio tempo libero fa il paio con la produttività anche da casa, e alla forte spinta che gli strumenti di lavoro da remoto, il cosiddetto lavoro agile, hanno ricevuto a partire dall'inizio della crisi. Sulle forme di lavoro da remoto si è sviluppato negli anni un importante dibattito politico e sindacale, che ha messo in luce come questa frammentazione sia assolutamente funzionale all'ottica padronale, scaricando da un lato una parte dei costi fissi sulle lavoratrici, pensiamo al riscaldamento, alla connessione internet, all'elettricità, ma anche alla necessità di socialità, che prima del virus veniva spesso traslata nel lavorare in spazi condivisi che richiedono però di pagare l'accesso, e dall'altro ostacolando in radice le possibilità di sindacalizzazione o comunque di condivisione. A maggior ragione, quando poi non siano integrate misure di disconnessione della lavoratrice, che potrà essere così chiamata a lavorare a qualsiasi ora della giornata. Tanto, se il luogo di lavoro è diventato la propria abitazione e se, se sia costrette a rimanere nella propria abitazione, è un sillogismo molto allettante per il padrone pensare alla lavoratrice come sempre sul posto di lavoro. Questo comporta poi la continua sovrapposizione di orari dove tempo del lavoro produttivo, della cura e della vita si scontornano sempre più e i primi due si espandono notevolmente. In più, il rischio di crisi economica, congiunta all'operazione di agevolazione dei licenziamenti compiuta dal Jobs Act, e qui dobbiamo ancora ringraziare Renzi, temiamo porti e porterà tante persone a rispondere sul momento, a lavorare anche fuori dal proprio orario, perché il ricatto del licenziamento è sempre dietro l'angolo. E qui il congelamento dei licenziamenti ad opera del governo vogliamo ricordare che ha una durata limitata nel tempo e che inoltre non garantisce le lavoratrici con forme contrattuali precarie, che sono spesso donne e o persone provenienti dal sud ed est globali. Pensiamo alle lavoratrici autonome, pensiamo ai casi di scadenza del contratto a tempo determinato. Per questo noi non vogliamo che si torni alla normalità, perché era la normalità a essere il problema. Ma anche non vogliamo che questa fase di transito, cosiddetto, non venga pagata dalle persone più deboli. E se, come ci insegna l'OMS, la salute mentale è una delle componenti centrali del capitale umano, sociale ed economico delle nazioni, e questo capitale continua a fatturare, non ci sono problemi di salute mentale, giusto? Ma questa pandemia non è un'occasione di fatturare in altri termini, è un evento di portata globale che trascina con sé tutta l'insicurezza del presente e l'incertezza sul futuro proprio e della propria comunità e della comunità globale. E la retorica della produttività e del lavoro da casa oscura questo aspetto. Vanno invece ricentralizzate le esperienze che le diverse soggettività hanno di questa situazione, le vulnerabilità che questa situazione mette in luce e che espandono ancora una volta l'orizzonte del politico. Donde manda capitán, muere marinero, todos saben bien que es por dinero. A un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De a un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, somos sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, somos sodeado, me paso, termino borracha. Un asado, de paso, somos odiados. somos odiados. Eccoci, ballucchiando con Sara Eve che cantava Zodo de Fo, tutto un po' danzerecce. E ci ritorniamo in diretta con un po' emozionata, devo dire, perché ora, se le mie sorelle e compagne sono d'accordo, vi leggerei una poesia, un contributo che abbiamo per la trasmissione di oggi di Valentina Greco, e lo leggerò io, quindi immaginando che ci sia un incontro a distanza con Valentina, che ha scritto questa poesia che ci sembrava perfetta per la trasmissione di oggi. Siete d'accordo? Sì, sì, una di quelle coincidenze cosmiche per cui trovi proprio la cosa giusta al momento giusto. Quelle risorse, no, che arrivano e ti fanno sentire che non sei sola, e che non è sbagliato sentire un po' di disagio, che non è sbagliato non essere produttiva, insomma, che ci fanno sentire... Sì, lo rivendichiamo il disagio che non è produttivo. Decisamente. E quindi sentiamo, se vi va, la poesia di Valentina. Assolutamente. Volentieri. Potevo approfittare di questo momento per fare ginnastica. Potevo approfittare di questo momento per studiare. Potevo approfittare di questo momento per depilarmi. Potevo approfittare di questo momento per imparare a cucinare. Potevo approfittare di questo momento per fare le pulizie. Potevo approfittare di questo momento per riordinare l'armadio. Potevo approfittare di questo momento per scrivere. Ma non sono una laida approfittatrice. Si può fare grazie, l'applauso in diretta? Grazie Ari per averla letta. Grazie mille a Valentina, le mandiamo un bacio gigante e la ringraziamo tantissimo, perché devo dire che io quantomeno mi sono ritrovata tantissimo, ed è bello sapere che ci sono sorelle e compagne che trovano le parole per dire quello che magari tu senti e poi non riesci a dire e dirlo così bene. Assolutamente. Sono le parole giuste, credo siano parole giuste anche per liberarci un po' da questo senso di colpa, se non riusciamo ad approfittare, se non riusciamo a controllarci, autocontrollarci. Esattamente, quella sensazione subdola di autocontrollo che pensiamo sia giusto attivare, e uno dice, ma di cosa c'è di giusto di questo attivare questo autocontrollo per essere produttivi? Poco e nulla. Anche perché, come mette bene in luce questa poesia, chi controlla è spesso chi approfitta. È interessante che la radice della parola approfittarsi sia proprio quella del profitto. Io adoro i tuoi excursus sulle delle parole, davvero. Non potrai farne a meno. Ed è subito intervento di Ludo sulle parole. Questo è per le mie amiche nerd della linguistica come me. Possiamo salutare Rebecca, la nostra migliore amica, anche lei molto nerd linguistica. Che dici? Se ci sta ascoltando in questo momento. Ciao Rebe, se non ti sei stufata di ascoltarci, ti mandiamo un grande abbraccio. Ciao Rebecca, ti saluto anche io. E su questa dimensione del controllo, dell'autocontrollo, che insomma, su cui gioca molto, molto della retorica sullo smart working, ci diciamo di gettare tanta merda, insomma. Cosa ne dite? Tantissima merda. Possiamo direi a questo punto passare a un altro tema di questa puntata, che di cui ci può parlare la nostra amica Elisabetta, che di giurisprudenza e di queste questioni sicuramente ne sa parlare un po' meglio di noi. Perché mi ricordi gli errori madornali della mia vita? Comunque sì, molto volentieri ci ricolleghiamo, mi farebbe molto piacere discuterne appunto sempre collettivamente, perché è proprio questa l'idea della nostra radio. È un tema che si ricollega appunto all'idea che abbiamo già introdotto prima, quella del controllo e quella della produttività. Ed è quella parola orrida che Ari prima con tanto timore appunto ha tirato fuori. Smart working è un termine inglese, teoricamente lavorare in modo intelligente, lavoro agile in italiano è stato tradotto così, che ci riporta a quella dimensione in cui vi sono appunto una serie di dispositivi di controllo adoperate appunto dalla parte datoriale nei confronti dei lavoratori tipici di questa nostra società attuale neoliberale, che indubbiamente vanno a incidere sulla salute mentale della lavoratrice o lavoratore, vanno a inciderne sulla salute mentale e vanno a incrementare anche quel senso di ansia, naturalmente, anche perché poi si abbatte proprio quella barriera che già era molto labile e fragile tra tempo appunto dedicato al lavoro e tempo poi dedicato a una dimensione più privata del sé. E tra l'altro mi ricollego a un altro passaggio che abbiamo detto prima in puntata. Sempre infatti della serie Grazie Renzi possiamo analizzare un po' la nostra normativa attuale in materia di controllo a distanza datoriale. Facciamolo, Eli. Grazie Renzi per una modifica introdotta con appunto il pacchetto del cosiddetto Jobs Act, perché non solo questo appunto strumento legislativo ha reso ancora più precari i posti di lavoro e ha modificato una serie di norme in tema di licenziamento, ha modificato profondamente anche l'articolo 4 della legge dello statuto dei lavoratori, la legge 300 del 70. E come è intervenuto il Jobs Act su lo statuto dei lavoratori? Sostanzialmente tramite la totale soppressione del divieto di utilizzo di strumenti di controllo a distanza. Anzi, cosa fa il legislatore del Jobs Act? Introduce ex novo questa forma di controllo, anzi lo legittima l'utilizzo dello strumento di controllo per via di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro, e così facendo il fulcro della questione è una vera e propria liberalizzazione dei controlli datoriali, perché se teoricamente sono previste delle procedure, dei limiti, delle garanzie rispetto a questi strumenti di controllo, cioè che possono essere adoperati dal datore previo accordo con le rappresentanze sindacali o nel caso in cui non si riesca a raggiungere questo accordo, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, beh, tutte queste procedure in realtà vengono meno rispetto a quegli strumenti che sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e rispetto a quegli strumenti di registrazione di accessi e presenze. Ora, possiamo capire tutto assieme come naturalmente già la nozione di strumento di lavoro è molto indeterminata. Strumento di lavoro con cui rendere poi la prestazione, anche qui si caratterizza proprio per indeterminatezza e può essere interpretata in maniera molto ampia. E sappiamo già a vantaggio di chi, a svantaggio di chi. È una situazione in cui possiamo senza far problemi, per esempio, rientrare oggi la lavoratrice o il lavoratore che utilizza il computer, il proprio computer, per rendere la prestazione. E tra l'altro, e quindi appunto è qui che si ha la problematicità, è qui che si ha proprio il controllo e tutto ciò aggravato appunto da quella che è una disparità notevole fra le parti. E da notare tra l'altro come, ai sensi appunto della nostra normativa attuale, tutte le informazioni che poi vengono raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. Naturalmente al lavoratore deve essere data una previa informativa delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione di controlli. Ma come si traduce questo poi nella pratica? Alla lavoratrice, al lavoratore, nella pratica vengono date al momento dell'assunzione del lavoro una dichiarazione molto difficile da interpretare, da comprendere a fondo, e sostanzialmente uno quindi quando firma il contratto di lavoro accetta un po' la qualunque, ma banalmente chi ha chi legge termini e condizioni di qualsiasi cosa ha incontrato nella propria vita, penso nessuno, manco io. E quindi è appunto estremamente problematica, già era estremamente problematica la situazione, era critica, adesso in questa fase chiaramente tutto questo è solo amplificato di più. Sempre in tema di quello che succede nella pratica, una pratica che abbiamo registrato anche ad esempio l'utilizzo di schermate, di screenshot, cioè la richiesta di screenshot da parte del datore nei confronti della lavoratrice o del lavoratore per confermare che si sta rendendo la prestazione. Quindi già era un panorama brividi. Ci vorrebbe una tipo musica di paura di sottofondo. Sì. Per le prossime puntate sì. Ci muniremo. Potremmo anche creare una sigletta apposta, grazie Renzi. Sì. E quindi appunto questo da un piano normativo pratico si traduce poi con conseguenze enormi naturalmente sul piano disciplinare e di conseguenza anche sul piano della nostra salute mentale. Grazie mille Elisabetta. Davvero. Super chiara. Spero di non avervi annoiate. No, per nulla, anzi grazie, sono... è un altro sguardo ancora super importante, siccome in modi diversi ciascuna di noi sta facendo i conti con il rapporto tra lavoro e casa e grazie mille. Vi sentite pronte per introdurre la nostra nuova rubrica? Secondo voi è il momento? Sono emozionatissima. Andiamo? Andiamo. Ecco, con l'occasione di avere Chiarezza con noi, Chiara ancora qui, inauguriamo una rubrica che è proprio Chiedi a Chiarezza nel vero senso della parola ed è sui sogni. Credo che sia un'esperienza abbastanza comune in questi giorni di quarantena sognare in maniera magari più intensa o forse ricordarsi di più i sogni, non lo so. E noi vorremmo aprire questa mini rubrica, quindi mandateci anche dei sogni se volete. E ne abbiamo iniziato con uno che ci è arrivato anonimo. Dice così: una persona che conosco mi sta arrestando mettendomi le manette. Io la guardo e le dico che non me lo dimenticherò e che pagherà. Sento che questa persona è in parte dispiaciuta, ma lo fa comunque. Forse sono su un treno, mi sembra ci sia qualcun altro che fa sempre parte del gruppo che vuole arrestarmi e che mi aiuta a non far ritrovare lo zaino che ho con me. Chiara, cosa ci vuoi dire su questo sogno? Allora, ovviamente farò un discorso molto generico, non conoscendo questa persona, ma prendendo un po' spunto da altre narrazioni di sogni che mi arrivano o che comunque vengono condivise in questi giorni. C'è molto parlare su una iperproduttività, questa sì, davvero del nostro, insomma, dello spazio onirico in questi giorni. Chi sognava o pensava di sognare poco si ritrova a dire sto sognando tantissimo. Spesso si parla di anche sogni che hanno un retrogusto molto angosciante. O comunque di paura, quindi diciamo questa è un po' la premessa. Forse è il nostro inconscio che in questo momento ha la possibilità di lavorare un po' più prepotentemente, venendo a mancare tutte le, non so come dire, le relazioni sociali primarie che a volte un po' lo tengono a bada o comunque no, ci combattono un pochino a livello profondo. Detto ciò, alcuni elementi mi ritornano abbastanza ricorrenti. Uno è quello degli spostamenti, quindi diciamo di spostarsi da un punto all'altro, di viaggiare, di diciamo di rompere la propria condizione presente di quarantena, e quindi qua appunto l'elemento del treno mi sembra interessante. L'altro elemento che soprattutto devo dire a partire dai sogni che condivido con le compagne e i compagni in questi giorni è quello delle forze dell'ordine. Quindi diciamo di una, come posso dire, di un ingresso nel contesto onirico, nello spazio onirico di figure come queste. È evidente che diciamo le ritorsioni di controllo di questa situazione agiscono su ognuno di noi e risvegliano quel sentimento giusto di disprezzo e odio. Questo diciamo lo dico anche al netto del mio sapere professionale, quindi cercherò di integrare questi miei aspetti, visto che vivono già integrati più o meno dentro di me, però non so come dire, anche un po' il desiderio di forse di sentirsi anche attivi dentro questa dimensione che ci sta passivizzando un po'. Non abbiamo in mano un grande potere di ribaltamento in questo momento, e forse questa passività si rappresenta nell'inconscio in questo modo. Sullo zaino alzo le mani, non saprei veramente cosa dire, magari potremmo chiedere in maniera più consistente a questa persona che ha fatto questo sogno se rintraccia diciamo, dei significati, degli elementi che le risuonano rispetto al suo sogno e soprattutto che tipo di emotività in qualche modo ha lasciato, di che traccia emotiva ha lasciato poi questo sogno. L'ultima cosa che volevo dire è che ovviamente i sogni in qualche modo esprimono le nostre ambivalenze più profonde. Quindi, insomma, le nostre ambivalenze in termini, diciamo, di contraddizioni, di difficoltà di integrare, ecco, appunto. Per cui, un po' a volte, ci dicono che stiamo così. Su questo mi sembra più che, non so come dire, più che comprensibile, ecco, che emergano delle ambivalenze in questo momento. Grazie mille Chiara, io rinnovo l'invito se avete degli altri sogni e se Chiara ha voglia di prestarsi a questo esercizio non molto, come dire, credo deontologicamente corretto di No, proprio interpretare. sbagliatissimo. Infatti, questa è un'interpretazione che deriva più che altro da così, da un sentire comune di cui discutiamo assieme, più che dalle mie competenze professionali, che su questo, diciamo, si muovono in maniera ancora troppo poco matura. Però, appunto, visto che i sogni sono così presenti, anche chiacchierarne un po', penso che ci Farne possa un fare tema di bene. discorso tra di noi in questo momento mi sembra più che legittimo, per cui. Grazie ancora, Chiara. Grazie a voi, un bacio, a presto. Big money spending, man who gets the women, big bill dropping, want it then you got it, rolly face wearing, if she looking then she staring, if she staring then she caring, but can't put a finger on it, you a big game talker, every ex your stalker, you ain't ready for no relationship but can't talk to her, you just want some company, every bitch you fuck with either crazy or amazing, then you shady as can fucking be, you can't commit and that's a greater talent, claim you're breaking hearts like back to back, deep inside there's something less than average about the bitches that you claim to back, something about the bracket that you have, maybe all the practice that you have, wouldn't do you any good, where I'm at, class ain't something you can pay to have. You could tell me lies, tell me lies, tell me I'm tripping, tell me why, tell me I'm the one, then rewind to a gaslight. Oh, you a fucking prince charming out in public, I'm like, yeah, yeah, yeah. Lead me on, then they leave, then it's back to never there. Throw the blame out everywhere, no one can compare, yeah, yeah. You just never wrong, but here's your problem now. I don't care, you playing with my mind. Somehow every time, pretty lies come right out your mouth and that ain't right. Gotta fucking draw the line, I've been just your type. Prey on any insecurity, you fucking fine. Got me questioning my memory, your narcissist intensity. The starting off the problem, causing drama, then you got me second guessing me. And I don't give a fuck which house your moon is, what sign you are, or how you grew up. You're a fucking adult and you gotta get it together, you're a dick and you're manipulative as fuck. Tell me why, tell me I'm the one, then rewind to a glass. You could tell me lies, tell me lies. Tell me I'm tripping, tell me why. Tell me I'm the one, then rewind to a guy. Tripping, tell me why, tell me I'm the one, then rewind to a guy. Eccoci, bentornate, oltre che ballucchianti e un po' concentrate anche sui nostri sogni, grazie, grazie, grazie ancora a Chiarezza. Oltre che ballucchianti, questa canzone ci dà un po' lo spunto per raccontare anche un paio di altre cose. Sì, certo, perché abbiamo appena sentito Gaslight di Snow the Product, che tra l'altro mi sta facendo ballare tantissimo in camera mia in queste settimane, quindi grazie. E questo pezzo l'abbiamo anche scelto per il titolo Gaslight, il contenuto della canzone. Gaslight si potrebbe tradurre e spiegare come quel fenomeno di manipolazione psicologica per cui si vuole far dubitare a una persona della propria capacità di intendere e di volere attraverso appunto la manipolazione. Per rendere più chiara questa spiegazione, che mi rendo conto un po' macchinosa, possiamo fare un esempio. Non ho la chiarezza di Chiarezza, possiamo fare questa altra battuta più pietosa. Io riso tanto. Questo esempio è come se io andassi da una persona e dicessi: guarda, ho appena visto la tua macchina giù in garage, e quella persona dicesse: no, ma cosa stai dicendo? Ma no, ma sei pazza, te lo inventi. È difficile obiettare, no? a questo genere di attacchi, perché è proprio un modo per sminuire qualunque cosa tu dica. E tra l'altro questa è una pratica che viene spesso riprodotta secondo precise linee di genere, dato che è proprio il patriarcato che ci vuole tutte pazze, capaci di intendere e di volere. E tra l'altro la pazzia, la capacità di intendere e di volere, pazzia ovviamente fra molte virgolette, sono cose che nell'immaginario e nella realtà patriarcale sono molto spesso associate. E questo ci rilancia e ci collega anche al tema di una delle prossime puntate della radio, perché questa puntata... Possiamo dire che avevamo l'ambizione di condensare tutto in una puntata, ma le cose sono talmente tante, ricche e importanti che insomma poi alla fine si è deciso per rilanciare un'altra puntata. Sì, assolutamente, sta già esplodendo adesso e esploderà probabilmente anche settimana prossima, perché abbiamo un altro tema importantissimo che è quello della salute mentale in connessione alla violenza di genere, alle situazioni delle soggettività più vulnerabili e anche rispetto alla situazione del personale sanitario. Benissimo, e cosa ne dite? Cioè, visto che stiamo andando verso la conclusione della puntata, prima di lanciare la playlist che ci accompagnerà poi a continuare a ballucchiare nelle nostre camere, bagni o dove possiamo, potremmo dare qualche link, qualche risorsa in relazione alle cose toccate fino ad ora? Assolutamente. Sì, assolutamente. Chi vuole lanciare link e contatti utili? Allora, se volete inizio a lanciare questo link che abbiamo trovato, che è molto raccoglie tantissime risorse gratuite online e via telefono, e vi detto il link, che è xho.gitlab, scritto G-I-T-lab, .io/supporto-psicologico-covid-19/. E a questo link potete trovare appunto l'elenco delle risorse gratuite per regioni e anche quelle che sono attivate con servizi specifici, per esempio per persone straniere, per migranti, per soggettività trans, per personale sanitario, per studenti e studentesse. E tra queste volevamo darvi un paio di numeri. Vuoi andare tu, Eli? Volentieri. Allora, cioè, possiamo darvi il numero del pronto soccorso psicologico mediterraneo a Prodi, che fondamentalmente si tratta di un laboratorio. Scusatemi, mi sto incartando. Figurati. Gli effetti della diretta, non solo vibriamo, ma ci incartiamo anche e ci emozioniamo. Allora, è tutto vero. Due numeri di telefono cellulare, quello del pronto soccorso psicologico, che è appunto un servizio attivato da Mediterraneo, un primo contatto via WhatsApp, poi seguono appunto contatti più telefonici. Potete, potete chiamare questo numero dalle 10.30 alle 19.30 e il numero è 392 89 59 198. E poi abbiamo anche un servizio che offre supporto in lingue, in cinque lingue, attivato da UNICEF, Médecins du Monde e Asinitas, e per chi non ha il medico di base e ha bisogno di un consulto medico psicologico, 351 10 22 13 90. E inoltre ricordiamo, l'abbiamo annunciato nella trasmissione, non ricordo se precedente, ma una delle trasmissioni che ci hanno preceduto, la nascita della Brigata Basaglia, un servizio che non è ancora in questo momento attivo, ma seguendo la pagina Facebook delle Brigate Volontarie per l'Emergenza, quando sarà attivo potrete vedere anche i contatti direttamente, giusto? Giustissimo. Allora, se voi siete d'accordo, noi possiamo quasi iniziare a fare dei saluti. E questa sera abbiamo una playlist che ci accompagnerà poi nel corso della serata, ma prima possiamo magari appunto iniziare a salutare. Intanto io dico grazie mille Elisabetta e Ludo, cioè grazie infinite per questa puntata meravigliosa. Ma grazie a te Ari. Grazie a te Ari. E grazie, grazie, un super grazie di cuore a Ludo, che ha messo veramente la testa e l'anima in letture di cura e che sta curando, sempre per restare in tema di cura, battute penose anche da me, non ti preoccupare Ludo, sta curando una playlist davvero strepitosa e da settimane, e non so come facciano le persone a fare la quarantena senza le playlist di Ludo. Non ci stuferemo mai Ludo. E allora, se tutto funziona, se Arianna è capace di far partire la playlist, e abbiamo adesso, quando vi saluteremo, avremo Marina, che ringraziamo tantissimo, che ha pensato alla playlist per questo 8 aprile per accompagnarci questa sera, ma appunto ci introduce lei la scelta delle canzoni che ci accompagneranno dopo, per cui un abbraccio, un bacio grande da parte nostra anche a Marina, che adesso ci racconta un pochino la scelta della playlist, e poi se Arianna è capace e in sintonia con la tecnica partirà la playlist. Intanto un bacio a tutte e tutti. Grazie Marina, grazie Arianna. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Una breve intro a questi 10 pezzi. Sono 10 pezzi di elettronica in senso lato che esprimono vari stati d'animo della quarantena, stati d'animo personali ma anche un po' collettivi, e vogliono, diciamo, esorcizzarli anche attraverso un finale un po' più, diciamo, techno. E passano da un pezzo di 20 anni fa con cui cominciamo, delle Chicks of Speed, che ci fa un po' viaggiare nel tempo perché racconta in modo ironico un vagabondaggio per l'Europa ai tempi dell'Interrail, che adesso non può far altro che far venire molta nostalgia, per poi ad esempio un pezzo dell'anno scorso di Ota, una musicista norvegese che è stata definita club music per gli introversi, che è una specie di ode alla misantropia, al richiudersi in casa. E poi, non so, una delle scoperte mie di quest'anno, Mary Davidson, canadese, che fa un pezzo geniale remixato da Soulworks, che ironizza sulla dedizione al lavoro, l'estetizzazione del fare fatica, staccanovismo, no? E lo trovo geniale, molto ballabile, soprattutto in questi tempi di quarantena, che c'è chi sta buttando a capofitto sul lavoro. Ecco, questo pezzo è per tutti loro. Poi c'è Kim Petras, un personaggio molto interessante che fa della musica super pop, ma fino ad ora in modo indipendente, e qua fa un featuring con Sophie ed è un pezzo molto energico, molto preso bene, molto up per tutti quelli che stanno vivendo la quarantena a mille, tra torte, yoga, aperitivi su Zoom, tornando poi più seria, ho messo alcuni pezzi un po' più per esorcizzare anche la sofferenza di questo periodo, partendo da Peaches con il classicone, anche questo di 20 anni fa, Fuck the Pain Away, e un pezzo del duo elettronico Boy Archer, che fa pezzi molto intensi, molto dark e molto belli, questo dal titolo Fate. E poi seguono alcuni pezzi un po' per ballare, cominciando con Negative Gemini, un'americana che ha questo pezzo sognante con delle vibrazioni un po' da serata estiva appena cominciata, sembra di essere a un festival. Quando comincia a far buio ci sono i primi gruppi che suonano, c'è davanti tutta la notte per ballare, volevo trasmettere questa sensazione. E poi ci sono alcuni pezzi appunto più danzerecci, per finire con gli 8 minuti di John Hopkins, remixato da Anna Singularity. E questo è tutto, grazie Ari, e un caro, caro saluto a chi ci sta ascoltando. Euro trash girl. Euro trash girl. Well, I've been up to Paris, and then I slept in the park. Went down to Barcelona, and someone broke into my car. Yeah, I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens, and then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for all my cash. I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for you, for my Euro trash girl. CRS on the metro, they shook me down for this bribe. On my knees for the searching, when my passport it finally arrived. Called my mom from a payphone, said I'm down to my last, and she said that she would send me to college, and I should call my dad. The waitress that he married, well, she hung up the phone. You know, she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, and then I spent it all in one night, buying drinks at the Milkvee for a soldier in red. Searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for your trash girl.